Abasa si accigliò. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Abasa wa tawalla. Si accigliò e voltò le spalle. Quando il cieco venne da lui. Cosa ne puoi sapere? Forse voleva purificarsi. O riflettere, affinché il monito gli fosse utile. Quanto a colui che invece pensa di bastare a se stesso. Tu ne hai maggiore premura. Cosa ti importa se non si purifica? Quanto a colui che ti viene incontro pieno di zelo, essendo timorato di Allah, di lui non ti occupi affatto. In verità questo è un monito. Se ne ricordi dunque chi vuole. È contenuto in fogli onorati. Sublimi, purissimi. Tra le mani di scribi. Nobili, obbedienti. Perisca l'uomo quell'ingrato. Da cosa l'ha creato Allah? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Da una goccia di sperma lo ha creato e ha stabilito il suo destino. Thumma as-sabila yassara. Quindi gli ha reso facile la via. Thumma amatahu faqbara. Quindi l'ha fatto morire e giacere nella tomba. Thumma idha sha'a anshara. Infine lo resusciterà quando lo vorrà. Kalla lamma yaqdi ma amara. No, non ha adempiuto a quello che Allah gli ha comandato. Falyanzuri l'insanu ila ta'ami. Consideri l'uomo il suo cibo. Anna sababna l'ma'a sabba. Siamo noi che versiamo l'acqua in abbondanza. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Poi spacchiamo la terra in profondità. Fa'anbatna fiha habba. E vi facciamo germinare cereali. Wa'inaban wa qabba. Vitigni e foraggi. Wa zaytunan wa nakhla. Olive e palmeti. Wa hada'iqa ghulba. Lussureggianti giardini. Wa fakihatan wa abba. Frutti e pascoli. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Di cui godete voi e il vostro bestiame. Fa'idha ja'ati s-sakha. Ma quando verrà il fragore? Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Il giorno in cui l'uomo fuggirà da suo fratello. Wa ummihi wa abihi. Da sua madre e da suo padre. Wa sahibatihi wa banihi. Dalla sua compagna e dai suoi figli. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Poiché ognuno di loro in quel giorno avrà da pensare a se stesso. Ujuhun yawma idhin musfira. Ci saranno in quel giorno volti radiosi. Dahikatun. مستبشرة sorridenti e lieti. ووجوه يومئذ عليها غبرة e ci saranno in quel giorno anche volti terrei ترهقها قترة coperti di tenebre. أولئك هم الكفرة الفجرة sono i miscredenti, i peccatori.